Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Buona parte del mondo imprenditoriale associativo che ruota intorno alle rinnovabili, in particolare al fotovoltaico, sono col fiato sospeso. Questo dal 3 marzo, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha votato il decreto legislativo rinnovabili. Sono col fiato sospeso, direi anche piuttosto arrabbiate, queste associazioni, perché nel decreto si uccide praticamente nella culla il terzo conto energia, cioè la tariffa con cui si incentiva la produzione di energia fotovoltaica, e se ne annuncia un quarto che dovrebbe arrivare entro il 30 aprile, sicuramente meno generoso, ma nessuno sa quanto, probabilmente oggi neanche il governo sa bene quanto. La ragione di questo improvviso cambiamento di opinione, appunto del governo, in particolare del ministro Romani allo sviluppo economico, sarebbe il costo insostenibile che gli italiani si sarebbero trovati a pagare in bolletta se le cose fossero continuate così. Mercoledì il Partito Democratico ha presentato una mozione per impegnare il governo a rivedere questo decreto legislativo. Vediamo allora di capire quali sono le idee del principale partito di opposizione su tutta questa vicenda. Ne parliamo con il responsabile della Green Economy del Partito Democratico, Ermete Realacci. Buonasera Realacci, benvenuto. Buonasera a Mr. Kilowatt. Allora Realacci, il fotovoltaico costa un bel po' di soldi, quantomeno le tariffe nel 2010 erano tra le più alte al mondo. Il governo è preoccupato per le bollette degli italiani, cosa c'è che non va? Beh, innanzitutto c'è che questa scelta è stata fatta sulla base di dati e di previsioni completamente false. Il ministro Romani ha dichiarato una balla colossale, gliel'ho detto di persona, l'ho detto in aula in Parlamento, quando ha detto che nel 2009 e nel 2010 sono stati spesi 10 miliardi di euro all'anno per il fotovoltaico. È una cosa che non esiste, è stato speso certo. Meno di un quarto. No? Sì, Perché dice questo? Non credo che mentisse sapendo di mentire, probabilmente gli sono stati dati dei dati sbagliati. Ci sono lobby in azione. Ora è ovvio e siamo d'accordissimo che come accade nei grandi paesi, questi incentivi debbano essere seri, affidabili e decrescenti, perché devono accompagnare queste fonti verso una piena competitività di mercato. Ma invece dare prima mano libera anche alle speculazioni e dopo uccidere un'industria molto importante, molto giovane, molto vitale, soltanto perché si vive alla giornata e magari si risponde a interessi che hanno la testa rivolta indietro nel passato, è una cosa che non fa bene all'Italia. Aggiungo che sia alla Camera che al Senato era stato fatto un lavoro serio, tant'è vero che si era arrivati a dei pareri unanimi sia alla Camera che al Senato. Quei pareri sono stati ignorati e il provvedimento che è venuto fuori in molti punti non c'entra nulla con quello che era stato inviato alle Camere, quindi veramente siamo di fronte a un colpo di mano pericoloso. E soprattutto diciamo la discontinuità che fa saltare tutti i piani delle industrie che avevano investito, e a me viene da dire che chi invece probabilmente nel 2010 ha speculato ormai ha già speculato ed è a posto. Esattamente. E questo forse è il problema più grave, no? Tanto per essere chiari, io quando nel decreto salva Alcoa, adesso chiedo scusa se è un passaggio un po' tecnico questo, ma credo che alcuni degli ascoltatori di Radio 24 lo conoscano. Comunque quel decreto con cui è stato prolungato l'incentivo del 2010 per chi non fosse riuscito a ottenere la connessione alla rete per tempo. Io su quello sarei stato francamente molto più cauto, come sarei attentissimo nei controlli, perché sicuramente ci sono, come in tutti i campi, delle astuzie, ma un conto è dire facciamo le persone serie, e noi abbiamo sempre detto copiamo il paese di riferimento in materia. Noi siamo il secondo grande paese manifatturiero d'Europa, il primo è la Germania, cerchiamo di battere la Germania o di andare in scia, non inventiamoci cose strane. Ecco, appunto, però la Germania è stata capace di fare 7 gigawatt quest'anno contro i 5-6 che probabilmente abbiamo fatto noi, ma con degli incentivi che in termini reali sono un terzo dei nostri nel fotovoltaico, quindi loro sì che sono stati bravissimi. Questo problema c'è, mi pare che l'abbiate anche riconosciuto che c'è questo problema, però avete in mente un modello alternativo di incentivazione più capace di adeguarsi a queste dinamiche di settore molto veloci? No, ma noi da tempo diciamo imitiamo i tedeschi, che anche loro hanno avuto degli errori nel passato, ma gli obiettivi che si pongono sono obiettivi ambiziosissimi. Vorrei ricordare che al dicembre dell'anno scorso noi avevamo installato 3.000 megawatt e la Germania 16.000, certo. E la Germania si pone l'obiettivo al 2020 di 52.000 megawatt fotovoltaici, pur avendo meno sole del nostro. Circa un terzo in meno. E si pone anche l'obiettivo che la Merkel peraltro ha annunciato dopo le vicende giapponesi di voler ulteriormente rafforzare, di produrre entro il 2020 quasi il 40% dell'energia elettrica con fonti rinnovabili, tenete conto che la Germania non ha con l'idroelettrico e la geotermia che l'Italia invece ha, e di arrivare all'80% nel 2050. Noi dobbiamo essere in scia. Lei dice dobbiamo andare in questa direzione, c'è però qualcosa di buono in questo decreto legislativo, per esempio alcuni principi che magari potete considerare positivi, l'incentivazione degli usi termici delle rinnovabili, il biometano in rete, o è tutto da buttare? Da buttare non c'è mai nulla, però non c'è proprio un'idea di dove deve andare l'economia e la politica. Vede, io trovo che quello che si è fatto adesso con questo provvedimento è parente di quello che si voleva fare qualche mese fa, quando si volevano azzerare il credito d'imposta del 55% sulla ristrutturazione edilizia, che è stato il vero piano casa che c'è stato in Italia, che è stato usato da 1 milione di famiglie italiane e ha tenuto in vita un settore dell'edilizia di qualità che si è riqualificato con decine di migliaia di imprese, con tantissimi lavoratori, con un fatturato complessivo di 12-13 miliardi di euro. Non si capisce che questo è il futuro dell'economia. E aggiungo una cosa, temo che ci sia un problema anche di rappresentanza di questa nuova economia. Io ho sempre pensato che per esempio sarebbe stato utile al paese avere dei sindacati uniti, no? Comincio a pensare che forse al paese sarebbe più utile avere una Confindustria divisa, perché se la Confindustria, quando ci sono trattative, rappresenta sempre gli interessi del passato e magari di qualche monopolista, questo non è utile al futuro e alla competitività dell'economia italiana. Dunque Realacci, io vorrei parlare con lei adesso delle strategie energetiche del Partito Democratico. Abbiamo esaurito il tempo, ci risentiamo lunedì se lei è d'accordo. Volentieri. È tutto, buon fine settimana.